Disco Dallas senza mano. Ciao Fujiko Factory, ciao ascoltatori di Radio Città Fujiko, qua siamo sempre Mauro e Eric per il consueto disco della settimana. Dopo questa presentazione così formale, direi, addentriamoci all'interno della nostra proposta settimanale. Parliamo del disco della settimana che vogliamo presentarvi appunto oggi, che come sempre lunedì, e scegliamo qualche brano che vi faccia compagnia tutta la settimana. Dove andiamo oggi? Ecco, noi siamo soliti prendere dischi italiani, valorizzare la musica italiana, soprattutto magari quella un po' di nicchia, un po' meno benefattoria. Ho detto nicchia. Nicchia. No, nel senso che ci piace comunque trovare band che non sono mainstreaming, come si dice? Mainstream. Sì, quella roba lì, insomma. Però oggi abbiamo deciso di andare a fare un giro all'estero, in un paese che non è per niente mainstream dal punto di vista musicale, perché credo di conoscere solo loro come band che provengono da questo paese. Però sono una bomba, e quando li abbiamo visti dal vivo, io mi ricordo che ho ballato tutto il tempo e stavo anche un po' male alla fine, perché è stato molto impegnativo. Chi sono? Chi è la band di cui parliamo oggi? Allora, vediamo se indovinate. Loro sono una band che si veste sempre di giallo e nero nei concerti. E qua indovinano subito. Beh, non lo so. Mandateci dei messaggi se avete indovinato. Comunque, vengono. Noi non potremo leggere. Vengono dalla Bosnia ed Erzegovina. Si chiamano Dubbiosa Collective. Per o Collective? Collective. Chissà. Comunque allora, collettivo. Esatto. I Dubbiosa, senza stare a aggiungere come si pronunci Collective o Collective, hanno fatto uscire un nuovo album. Questo nuovo album si chiama Fake News. Ovviamente loro sono sempre molto politici nelle scelte dei temi musicali, e anche in quest'album appunto non tradiscono questa tendenza. L'album è uscito qualche tempo fa, è uscito il 28 di gennaio, e contiene 9 tracce, e da subito è stato reso disponibile, come già hanno fatto in passato e Dubbiosa Collective, in streaming e in download gratuito nella rete, quindi non c'è bisogno di pagarli. Sì, diciamo che loro sono molto combat, per chi non li conoscesse hanno dei temi sociali molto importanti, e appunto loro del copyright gliene frega il giusto, nel senso le canzoni sono disponibili, voi le volete, le cercate, e l'album Fake News si trova su internet, te lo scaricate e ve lo ascoltate gratuitamente. Allora, prima di ascoltare una prima traccia che estraiamo appunto da Fake News, vi diciamo che quest'album è stato fatto in collaborazione con tantissimi altri artisti che sono comunque molto interessanti anche secondo me. Beh, diciamone un paio, ad esempio Manu Chao, Earl 16 di Dread Zone, Thomas Fetterman dei Soviet Supreme e il gruppo messicano Los de Abajo. Però io partirei con un altro featuring che ci ha incuriosito non poco e presumo incuriosirà anche voi. Si tratta di Robby Megabyte. Ma chi è Robby Megabyte? Allora, Robby Megabyte è il protagonista di un pezzo, Take My Job Away, che è anche un video molto interessante che spiega un pochino la storia di tutta la canzone. Robby Megabyte è il primo robot dall'aspetto umano che nel campo dell'intrattenimento musicale sta sbaragliando sostanzialmente un po' tutta la concorrenza. I Dubbiosa Collective raccontano ironicamente di essere stati costretti a ricorrere ad avanzate soluzioni di robotica e intelligenza artistica artificiale per sopperire alla totale mancanza di talento della band e di tutti i Balcani. Tutti i Balcani dicono: negli ultimi 2 mesi abbiamo lavorato duramente alle nuove canzoni con Robby Megabyte, questo robot umanoide dell'intrattenimento musicale, e siamo davvero contenti del risultato. Non solo è più affidabile ed efficiente degli umani, ma mostra anche un incredibile potenziale creativo grazie a processori e software all'avanguardia sviluppati nei laboratori dell'Istituto Bosniaco per l'intelligenza artificiale. È tutto fantastico. Non sappiamo quanto questo sia una fake news, ossia comunque è qualcosa di fantastico. Beh, questo è proprio il core di tutto l'album, cioè io ti do una notizia, ti faccio ragionare sul fatto che può essere anche vera, perché nessuno ci può dire che non è così, e poi però sta un po' a te cercare le fonti, quindi noi siamo andati a cercare le fonti, fatelo anche voi. Adesso ascoltiamo intanto il pezzo e poi vi continuiamo a raccontare fake news. Questa è Take My Job Away. Can't avoid, you will be happily unemployed. automated. Switch off, lean back in your seat. You are entirely obsolete. No daily grind from 9 to 5. It's so good to be alive. Machines will do all the work. Fuck this shit, let's go berserk. Please machine, make my day. Please machine, in the free. Please machine, obey and take my job. Allora, dopo questo pezzo che assolutamente ci ha conquistato, spieghiamo un po' questo album, appunto, che cosa contiene. L'album, abbiamo detto, che si chiama Fake News ed è l'ultimo uscito dei Dubbiosa Collective, ed è un album fatto, come potete intuire, di sarcasmo feroce e ispirata a denuncia politica. Zero lustrini e molta sostanza. Questo appunto è un po' quello che già avevamo immaginato dei Dubbiosa Collective. Torna la band più politically correct d'Europa, sempre fedele a se stessa, e presenta un album dai ritmi scatenati, un'irresistibile miscela di ska e punk, un esplosivo cocktail di elettronica e rock, come ci hanno abituato anche negli album passati, nonché nei concerti live, perché se vi capitasse, purtroppo quest'anno ancora non ci sono date in Italia, ma se vi capitasse di trovarvi dalle parti di un concerto dei Dubbiosa Collective, sappiate che è qualcosa di epocale e sudatissimo. Esatto, detto questo, Fake News, come avrete capito, ha proprio come tema centrale appunto le fake news, le cosiddette bufale della rete, che ormai sono un fenomeno dilagante di questi anni. Tra l'altro qua in radio c'era anche un bellissimo corso di giornalismo musicale che puntava proprio a eliminare le fake news. Ma ci dicono, nell'era delle bufale online, del giornalismo a chiappa click, o come Mauro click dice, bite. Click bite, ho imparato, bravo, della propaganda e disinformazione, è difficile capire quale sia la verità. Questo è il motivo per cui le nostre canzoni cercano di ridimensionare e ridicolizzare il fenomeno delle fake news. Immigrati e rifugiati non fanno parte di una grande cospirazione, la marijuana non è una droga d'ingresso verso sostanze pesanti, i robot non ci porteranno via il lavoro, l'intelligenza artificiale non conquisterà il mondo a breve. Quello che invece è più probabile è che la letale combinazione di avidità politica e cambiamento climatico renderanno il mondo sempre più inospitale in un futuro non poi così distante. Insomma, ecco, la mettono giù leggerine, dubbiosa, eh? Esatto, se l'appoggiano così. A questo punto, dopo Take My Job Away, vi presentiamo un altro brano, un brano che è uscito poco prima appunto di questa traccia, e si chiama Cross the Line. Questa canzone è una di quelle fatte in collaborazione con un altro artista, in questo caso Manu Chao, ed è un inno alla libertà di movimento dei migranti costretti a fuggire dai confini e da tempi insanguinati. Certo, che tu mi dici featuring Manu Chao, insomma, featuring Manu Chao, cioè, la libertà di muoversi, la libertà di attraversare, la libertà non è un crimine, ribadiscono i Dubbiosa. Ecco, con questo messaggio sempre leggerino, noi continuiamo ad ascoltare quindi Fake News, che vi ricordiamo è l'ultimo album dei Dubbiosa Collective, e con Cross the Line vi presentiamo quindi la traccia che apre questo disco. Bloody, bloody border. Walk over. cost the border. The border cost us. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so we cross the line. Cross the line. E ritorniamo allora anche da questo pezzo un pochino così leggero e vi raccontiamo chi sono i Dubbiosa Collective. Questa band, per chi non la conoscesse, è composta da tantissimi artisti. Intanto diciamo i nomi. Allora c'è Almir Azanbegovic alla voce, Adis Zvekic sempre alla voce, Brano Jakubovic alle tastiere e sampler, Vedran Mujacic al basso, Senad Sut alla batteria, Mario Severac al sassofono, Yernei Savela alla chitarra, Dragan Jakubovic tecnico del suono. Pensavo ti mettesse più in difficoltà questa lettura, invece te la sei cavata bene. Ma appunto, quando si sono incontrati i Dubbiosa Collective? Nel lontano 2003, in una terra lontana, lontana, chiamata Bosnia ed Erzegovina. Bellissima, tra l'altro, se non ci siete stati. Un gruppo di amici che cosa fa? Decide di formare una band. Succede tutte le volte nel mondo, tutti i giorni però nascono loro. E aggiungono, non si trattava di una band normale e non si formava in circostanze normali. Se da una parte è vero che insieme alle sonorità locali dei Balcani si mescolavano influenze musicali provenienti da tutto il mondo, e gli esempi sono gli ska, punk, reggae, elettronica, hip hop, dall'altra parte però non c'era effettivamente l'industria musicale nel 2003 in Bosnia e Erzegovina. C'erano pochi concerti e nessuno spazio per espressione culturale o politica tra i giovani. L'intera regione era avvolta da una profonda stagnazione morale ed economica. Ma fu proprio a partire da un simile background che sono nati, urlando e scalpitando, i Dubbiosa Collective, ed esigevano di essere ascoltati. Da allora la band è andata avanti più forte che mai, affermandosi come una delle migliori e più famose esibizioni dal vivo in Europa orientale, effettivamente. Effettivamente così. Detto questo, poi per stringere un pochino questa storia molto lunga, nel 2004 è uscito il primo album autoprodotto che si chiamava come loro, album omonimo, Dubbiosa Collective, ed è subito stato accolto molto bene, forse perché era ora di ascoltare qualcosa di nuovo. Il secondo album invece si chiama Dubnamite, che è l'incrocio tra Dynamite e Dub, musica Dub. Nel 2008 è uscito Firma Illegal, che era una posizione forte contro l'establishment nazionalista, soprattutto nella regione balcanica. Il quarto album si chiama 5-Du-12, che non so come si possa dire in 5-Du-12, sarà in inglese, non so, che ci deve essere qualche gioco di parole che però non sto cogliendo. Detto questo, questo album, di cui non ripronunceremo il nome, è stato reso disponibile gratuitamente sempre sul loro sito. E questo perché? Perché loro volevano avere una posizione molto ferma contro le etichette musicali ultracapitaliste, non volevano prendere parte a questo gioco sostanzialmente. A questo punto viene poi prodotto il loro quinto album, Wild Wild East, che è nato ed è sotto l'etichetta Coloro Records e prodotto da Bill Gold del Faith No More, insomma mica ragazzi. Successivamente l'album Absurdistan, legato anche qua al Kurdistan, col gioco di parole con l'assurdo, insomma, viene pubblicato nel 2013 ed è un enorme successo, e loro iniziano veramente a diventare una band internazionale. Tra l'altro, dentro questo album c'è il brano Kazoo, che è forse il loro singolo più ascoltato. Arriviamo alla fine a Happy Machine. A loro poi si sono uniti a questo punto tantissimi altri musicisti, ad esempio Manu Chao, che è presente anche in quest'album, ma anche Benji Webb degli Skindred, Roy Paci, il cantante Bichu, se si pronuncia così, perché anche qua la pegatina che conosciamo molto bene, che amiamo anche noi, e poi niente, loro hanno continuato a produrre tantissime canzoni che sono cantate in tante lingue, inglese, spagnolo, italiano e anche punjabi, ovviamente grazie a tutte le collaborazioni che sono nate. A proposito di canzoni in una lingua strana, ecco, anche in quest'ultimo album, appunto Fake News, ci sono canzoni cantate in inglese, in spagnolo, in bosniaco, e c'è una canzone particolare che adesso direi che vi faremo ascoltare, che si intitola French Song. Qual è la particolarità di questa canzone? È che è cantata in francese, ma in realtà loro il francese non è che lo sanno così bene. È un francese ironico, Google Translated, quindi tradotto con Google, parole semplici di immediata comprensione anche per chi non conosce la lingua. Ecco, probabilmente anche in questo caso è una riflessione sul fatto che l'internet ci dà diverse possibilità, ma poi usciamo un po' pirloni perché parliamo lingue che probabilmente non conosciamo realmente, e loro la buttano così sull'ironico con questa canzone che appunto è French Song, che è la settima canzone dell'album, che ricordiamo si chiama Fake News, uscito il 28 gennaio. Bienvenue. I will teach you French in just 2 minutes. Je vais vous apprendre le français en seulement 2 minutes. I wanna write a song to get popular in France, so when I play my tune, everybody dance. But lyrics are my biggest concern, 'cause French is impossibly difficult to learn. Learning takes time and I don't wanna wait, that's why I'm gonna use Google Translate. And then I get together these three chords and some typical basic French words. Bonjour, merci, merci, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merde, c'est la vie, à votre santé. Parlez-vous français? I guess this song doesn't really make sense. No one understands it and nobody dance. I'll try to make a song that speaks about love, but there is one problem that I can't solve. How to make a love song with the word je t'aime, 'cause only rhyme that Google offered is Marine Le Pen. And do you know what rhymes with Macron and Manuel? Molotov cocktail. Bonjour, merci, merde, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merde, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merde, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merde, c'est la vie, santé, s'il vous plaît. Parlez-vous français? Abbiamo raccontato tutto quello che, o quasi tutto quello che potevamo, insomma, almeno qualcosa per incuriosirvi un po' su questo fake news, hashtag fake news tra l'altro. In copertina c'è un Pinocchio disegnato di profilo e in ombra. Con anche, se non sbaglio, io credo che sia il l'uccellino di Twitter. Esatto, quindi proprio l'hanno studiata nei minimi dettagli, e anche i loro bellissimi colori, il giallo e il nero, che assieme sono una bomba. Detto questo, non so, noi speriamo di aver di avervi incuriosito. Se non conoscevate i Dubbiosa Collective, speriamo che adesso invece... Male se non li conoscevate. Speriamo che però col nostro disco della settimana vi piacciano di più, e tocchiamo un tasto dolente. Esatto, perché noi siamo andati a vederci tutte le date del tour confermate finora, sottolineiamo, perché magari qualcosa salta fuori, e non c'è nemmeno una data italiana. Siamo molto tristi, quindi Dubbiosa Collective, please come to our country. Magari ci stanno ascoltando. Please. Allora, se anche voi volete scoprire le date, le potete trovare sul sito dei Dubbiosa Collective, o Collective, non sappiamo, che è dubbiosa.org, quindi si può assolutamente capire. Vi possiamo dire che il tour arriva fino alla fine del 2020. Ci sono tantissime date, principalmente nel Regno Unito, che non è più un Regno Unito, forse un po' meno unito. Regno un po' diviso. Regno un po' diviso. Sì, hanno iniziato sabato scorso da Londra, sabato 15 febbraio, il tour, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Austria, Germania, Croazia, Francia, Serbia, Spagna, Repubblica Ceca. E però ricordiamo che durante l'estate saranno a diversi festival, quindi li potete trovare anche a festival che vi segnaleremo prontamente, ovviamente. Tipo il Pirata Rock Festival di Gandia in Spagna, che non conoscevo. Insomma, l'Italia non ci arrivano, maledizione a loro, noi siamo un pochino tristi. Adesso, per chiudere comunque con questo bellissimo album, hashtag fake news dei Dubbiosa Collective, vi salutiamo con l'ultimo pezzo che è il numero 9, la traccia numero 9 di Fake News, che si chiama Wild Wild East, e con questo vi auguriamo una splendida settimana. Welcome everybody to the Wild Wild East. We'll have the doors open, don't need the keys. Coming from the land, you're coming from the seas. People get around in the color of the bees. Back once again from the lion's den. Understand, all we need is you, my friend. We gonna bring some positive vibes. Push them by on the other side. Hey,